Focus Economia di Sebastiano Barisoni. I temi della giornata economico-finanziaria, come sempre a quest'ora, varie dichiarazioni oggi di politica economica, parlo dell'Italia, ma soprattutto il rapporto dell'Istat sulle famiglie residenti in Italia in condizioni di povertà assoluta. Come già vi hanno ricordato i nostri GR24, il dato è relativo al 2016, 1.619.000 famiglie residenti in Italia, che vuol dire sostanzialmente 4.740.000 individui, scusatemi, stabile il numero di persone in povertà assoluta, il che non è una buona notizia, ma almeno non è una notizia in peggioramento. Per quello che riguarda le condizioni di povertà, aumentano rispetto al 2015 tra le famiglie con tre o più figli minori e, dato ancora più eclatante, fra i minori e fra i minori in generale. Poi sui giovani occorre fare un raffronto con il 2005 e devo dire che il raffronto è impietoso e non si presta a nessuna interpretazione, è secco e basta. Dall'inizio della serie storica con cui l'Istat misura l'indice di povertà assoluta, ad oggi c'è stato praticamente quasi un triplicarsi, anzi più che triplicarsi, perché quello dei giovani era del 3,1% nel 2005, i giovani in povertà assoluta, si intendono chi ha tra i 18 e i 34 anni, siamo passati al 10%. Faccio notare che complessivamente anche il dato della povertà assoluta è salito moltissimo, però il fatto che nei giovani sia triplicato cresce anche fra gli adulti tra 35 e 64 anni, da 2,7% al 7,3%, e in diminuzione tra gli anziani, negli altri casi è raddoppiato, nei giovani è triplicato. Questo fa stride con il rapporto di cui parlammo due giorni fa di Boston Consulting Group, dove si citavano le famiglie milionarie, 307.000 famiglie milionarie, l'1,2% del totale, possiedono il 21% della ricchezza finanziaria. Tra l'altro, su questo, anche nel 2021 vi sarà un ulteriore aumento, saranno 433.000, l'1,6% del totale, nel giorno in cui veniamo a sapere tra l'altro che costerebbe 1.200.000.000 di euro impedire l'aumento dell'età per la pensione a 67 anni. Questo è l'effetto che si produrrebbe dal 2019 se si decidesse di bloccare l'asticella a 66 anni e 7 mesi e non a 67 anni, quindi congelando la misura. Questo è il tema, diciamo, forte di oggi, quindi dato sulla povertà assoluta e anche il raffronto con quello che è successo invece alle famiglie milionarie, mentre in apertura parleremo del rapporto OCSE sull'Italia e sulla pubblica amministrazione. Perché lo dico? Perché da questo punto di vista l'Italia nel 2015 tra i paesi appartenenti all'OCSE è stato il paese con la più alta percentuale di impiegati al di sopra dei 55 anni, a dimostrazione che il turnover si è bloccato nell'amministrazione pubblica, in realtà è stato proprio bloccato. Ma c'è di più, perché questo farà arrabbiare alcuni ascoltatori. Perché i dipendenti pubblici italiani sono circa 3.200.000, con un monte stipendi di 161 miliardi di euro. Al di là della cifra che così fa impressione, vale la pena ricordare che noi non abbiamo, l'abbiamo detto più volte, un problema di numero di dipendenti pubblici rispetto agli occupati totali. Da noi sono il 15%, la media OCSE è del 20%, in Gran Bretagna sono il 25%, nel nord Europa è il 35%. Non abbiamo nemmeno un problema di costo del singolo dipendente pubblico per abitante. Da noi costano 2.753 euro, in Gran Bretagna 3.600, in Francia 4.300, in Spagna 2.600. È ben più alta l'età media E questo è un problema, ma soprattutto qui si arrabbieranno alcuni ascoltatori, quello che è fuori dalla norma non è il numero di dipendenti pubblici né l'incidenza né quanto ci costano. Poi uno può dire, certo, bisogna vedere anche la loro produttività. Faccio notare che dipendenti pubblici sono anche carabinieri, poliziotti, infermieri, medici, insegnanti. Adesso non è che uno deve pensare solo all'ufficio comunale che finisce nella nostra classifica quando ci sono i furbetti del cartellino, bisogna pensare a tutto il pubblico impiego. No, il problema sono i dirigenti della pubblica amministrazione, perché il compenso medio dei dirigenti italiani della pubblica amministrazione è stato nel 2015 di $395,000, circa €347,000. È il più alto nell'area OCSE dopo l'Australia, che però di più alto a tutto rispetto a noi, salari e quant'altro. Cioè non esiste un paese in Europa che paghi in media così tanto i dirigenti della pubblica amministrazione. Alti anche i compensi per i ruoli di segreteria, $55,000 contro i $52,000 della media dei paesi OCSE, e invece gli stipendi degli impiegati pubblici con competenze specifiche sono più bassi della media. Sono $68,000 da noi contro gli $88,000 della media OCSE. Visto che non ho detto la media OCSE per i dirigenti, da noi appunto $395,000, mentre la media OCSE è di $231,000. Tradotto in euro, da noi €347,000, la media OCSE è di €203,000. Quindi abbiamo meno dipendenti della media, con un costo assolutamente nella media, un'età più alta della media, uno stipendio per gli impiegati più basso della media, uno stipendio per i dirigenti nettamente più alto della media. Partiamo come sempre dalla borsa, più 0,20% in questo momento Milano, più 0,30% Parigi, meno 0,1%, era più 0,1%, comunque invariata Londra, Dow Jones invariato anch'esso, in Italia Fiat Chrysler più 3,40%, Telecom più 2,5%, Mediaset più 2,20%, Enel più 1,60%, Generali più 1,5%, Exor più 1,20%, Ferragamo più 0,80% come Ferrari. Il fronte opposto, CNH meno 1,90, Finecobank meno 1,70, Terna meno 1,5, Azimut meno 1 come Recordati e Unipol SAI. Notizie in breve, come sempre in apertura. Allora, per quello che riguarda la Brexit, presentata la legge per cancellare la legislazione europea, si chiama Repeal Bill, la legge che cancellerà l'intera legislazione europea in Gran Bretagna in vista della Brexit. Il ministro per la Brexit, David Davis, ha esortato i membri del Parlamento a lavorare assieme, ma i laburisti e i liberal democratici minacciano di votare contro a meno di che non vi siano cambiamenti sostanziali. Nel frattempo, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Ungheria per la legge che introduce una stretta sulle ONG che ricevono finanziamenti dall'estero. E in particolare, la misura ungherese andrebbe a penalizzare il magnate che è ungherese americano George Soros. E quindi la Commissione europea ha avviato verso l'Ungheria una procedura di infrazione. Spostiamoci invece all'Italia, dove anche oggi l'asta dei titoli di Stato è andata molto bene, nel senso che il tasso a tre anni è leggermente salito, ma allo 0,23%, ha segnato i titoli a 3, 7, 15 e 20 anni per un totale di 7,5 miliardi di euro. Buona la domanda. Le reazioni invece all'annuncio, perché l'annuncio l'ha dato il Ministero all'Economia ieri in serata, che ha ricevuto la lettera da Bruxelles dove viene data all'Italia una maggiore flessibilità Oggi Gentiloni ha detto: siamo molto soddisfatti che la Commissione sia consapevole delle nostre posizioni, ma non è uno sconticino all'Italia. Sappiamo che l'Italia ha finalmente agganciato questa tendenza positiva dell'Eurozona. È molto importante che anche la Commissione europea mostri di essere consapevole, lo ha fatto ieri con una importante risposta alla sollecitazione che era venuta da diversi paesi europei, non solo dall'Italia, a rivedere la matrice della correzione strutturale del rapporto tra deficit e PIL. Era una richiesta formulata da 7 paesi, tra cui la Francia, anche se ogni tanto tendiamo a presentarla come una petizione per avere uno sconticino per noi italiani, perché il messaggio è molto semplice, e cioè c'è una tendenza alla crescita, bisogna rispettare le regole di fondo che ci siamo dati, ma bisogna anche evitare che un'applicazione rigida e poco lungimirante di alcuni elementi di queste regole finisca per avere effetti depressivi sulla crescita, che è poi la leva che ci consente di ridurre il debito e di far marciare l'insieme della nostra economia. Il Presidente del Consiglio ha parlato oggi, appunto avete appena sentito un passaggio, all'inaugurazione della nuova sede a Roma della BNL. E chiaramente, vista la sede, ha toccato anche il tema del credito delle banche. Ci sono le condizioni perché il credito riprenda vigore, contribuendo a risolvere le difficoltà residue ancora presenti nel settore. Poi ha toccato il tema del cosiddetto regalo ai banchieri con il decreto, il decreto del governo per le banche venete. Ha detto: rivendico gli ultimi interventi a difesa degli istituti in difficoltà, e parlare di regalo ai banchieri è facile demagogia. Io rivendico il fatto che i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, quello presieduto da Matteo Renzi e quello che ho l'onore di presiedere, abbiano lavorato intensamente per cercare di far fronte a queste difficoltà in collaborazione con la Banca d'Italia e le istituzioni europee, per consolidare la situazione e per salvare gli istituti che erano in maggiori difficoltà. Io lo rivendico, penso che essere intervenuti per salvare alcuni istituti in difficoltà sia stato giusto e doveroso. Dire oggi che il governo è intervenuto per salvare i banchieri è veramente fare facile demagogia. Noi siamo intervenuti per salvare milioni di risparmiatori, non qualche decina di risparmiatori, milioni di risparmiatori, centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, per le quali il fallimento disordinato di alcuni grandi o medi istituti bancari avrebbe provocato delle conseguenze devastanti sul piano del lavoro. Salviamo i risparmiatori, certamente non assolviamo i colpevoli dei disastri. Devo dire che mi stanno scrivendo molti ascoltatori, adesso arriveremo anche ad altre risposte. Il numero per gli sms è 349-238-6666, come per WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta del programma video sia sul sito di Radio 24 che sulla pagina Facebook. Ha parlato di giornata simbolo della fase di ripresa del paese, sempre a margine dell'inaugurazione della nuova sede della BNL, anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. Intanto è una giornata simbolo, perché quando si apre un'azienda, sia essa bancaria che manifatturiera, è sempre un fatto molto positivo per il paese. Il secondo è avere una capacità della lettura di cosa accade nel paese e fare conti con le potenzialità. Abbiamo un export che cresce, siamo a circa il 7% rispetto all'anno precedente, un prodotto interno lordo che va al di là delle aspettative, investimenti privati che cominciano a dare segnali di reazione, ed è l'indicazione che il paese può puntare molto su quella che per noi, nella nostra chiave di lettura, è la famosa questione industriale. Un paese industriale come il nostro, il secondo paese industriale d'Europa, e anche il messaggio di oggi, diciamo, un'Europa molto più integrata, un'Europa che deve fare i conti con le sue riforme economiche, e ricordiamolo, un'Europa che è il mercato più ricco del mondo e che è la grande sfida che può lanciare al mondo, invece di subire shock negativi dell'economia, potrebbe determinarne di shock positivi. E visto che appunto si trattava dell'inaugurazione della nuova sede della Biennale, un investimento da 300 milioni di euro, come ha ricordato il Presidente Luigi Abete, ricordando anche che gli investimenti sono stati l'anello mancante della ripresa economica italiana, e questo invece è un segnale che tornano a crescere. È la scelta di dare concretezza a un progetto di razionalizzazione, di sviluppo logistico, di integrazione tra le strutture che sono distribuite su più luoghi, di fiducia nel futuro, perché è un investimento che è stato deciso 5 anni fa in piena recessione. Quindi è un, come dire, è un concentrato di obiettivi che abbiamo percorso e che oggi riusciamo a realizzare tutti quanti insieme. Soprattutto per noi è importante perché, come ha detto Gianlo Cambonafè, noi siamo l'unico gruppo in Italia che non ha mai perso un bilancio, eccetto un quota, come ha detto lui, negli anni della crisi. Non abbiamo mai fatto operazioni, diciamo, di tipo straordinario, non abbiamo fatto aumenti di capitale, perché siamo andati avanti con il nostro passo costante, prudente, ma insieme fiducioso, e quindi questo ci ha consentito oggi di entrare in questa nuova dimensione col piede giusto. Adesso arriviamo al tema della pubblica amministrazione, dei dirigenti. Vedo che molti mi scrivono e mi chiedono: ma scusi, che ne è del famoso tetto dei 240.000 euro? Arriviamo a una risposta, daremo una risposta anche a questo. Ancora due notizie in breve. Una positiva riguarda il paese, nel senso che l'ICE, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, oggi registra, il dato è riferito ai primi 4 mesi dell'anno, comunque un ottimo andamento dell'export anche nei primi 4 mesi del 2017, più 6,6% contro una previsione del 3,4%, quindi nettamente meglio. Tra l'altro le esportazioni l'anno scorso hanno fatto già un più 1,2%. E la notizia negativa invece riguarda Italy, perché dopo l'effetto Expo Italy ha avuto un rosso nei ricavi italiani. Le attività prevalentemente italiane, alcune partecipate estere, hanno registrato l'anno scorso ricavi per 178 milioni contro i 211 dell'anno prima, e una perdita di 11 milioni contro un utile di 713.000 euro. La società ne prende atto e scrive nella relazione di bilancio che il risultato è in controtendenza rispetto agli andamenti degli anni precedenti. Invece, per quello che riguarda Amazon, qui ci spostiamo su un altro fronte, beh, insomma, vale la pena ricordare che il Prime Day, la giornata degli sconti per i clienti Prime, ha toccato l'11 luglio scorso come dato a livello globale, ha superato i dati del Black Friday e del Cyber Monday messi assieme, cioè più 60% le vendite rispetto all'anno scorso. In Italia la categoria più gettonata è stata quella dei personal computers, con oltre 100.000 prodotti acquistati nel Prime Day. Pubblica amministrazione, il rapporto dell'OCSE lo abbiamo ampiamente ricordato. Intanto saluto Gianni Dominici, direttore generale del Forum PA, che è il centro studi sull'innovazione della pubblica amministrazione. Buonasera Dominici. Buonasera a voi, buonasera. Allora, in estrema sintesi, ripeto per la seconda volta, i nostri dipendenti pubblici, 3.200.000 tutti inclusi, con un monte stipendi complessivo di 161 miliardi, in costante calo, devo dire, il monte stipendi, sì, valgono il 15% degli occupati totali, mentre la media OCSE è del 20%, Regno Unito 25%, 35% del Nord Europa. Quindi non abbiamo più dipendenti pubblici della media, anzi ne abbiamo un po' di meno. Il costo di ogni singolo dipendente pubblico è assolutamente nella media, perché sono 2.753 euro in Italia, in Gran Bretagna 3.600, in Francia 4.300, in Spagna 2.700, quindi siamo esattamente in media. Cosa non è in media? L'età, perché praticamente noi siamo al primo posto nei paesi OCSE per numero di dipendenti pubblici che hanno più di 55 anni, e nello specifico da noi oggi meno di un dipendente su 100 è sotto i 25 anni, lo 0,9% contro il 5% di Francia e Regno Unito. Noi abbiamo pochissimi anche tra i 25 e i 34 anni, 7% contro il 20% del Regno Unito e il 20% della Francia. E appunto abbiamo record negli over 50, sono 1 su 2, mentre in Gran Bretagna sono 1 su 3, come 1 su 3 sono in Francia. I 35-49 anni invece sono in media con gli altri paesi, sono il 40%. Quindi abbiamo pochi dipendenti pubblici pagati nella media, con un'età media molto alta. E prima domanda che ho per lei, però l'altra cosa che balza agli occhi è che rispetto alla media del compenso medio dei dirigenti, nei paesi OCSE è di 203.000 euro, da noi è di 347.000 euro, sono i più pagati i nostri dirigenti pubblici dopo quelli australiani. Com'è possibile se c'era la soglia di 240.000 euro? Sì, ma insomma mi sembra ottima la sintesi che si è fatta, che va anche contro alcuni stereotipi, no? Non è vero che sono tanti, non è vero che sono strapagati. Esattamente come dice lei, il trend di riduzione ormai è inarrestabile, con dei ritmi che sono anche abbastanza veloci di riduzione del corpaccione pubblico. I costi medi, esattamente come ha detto, sono nella media, quindi ecco, non è vero che sono tanti e costano tanto. Abbiamo questa anomalia rispetto agli altri paesi, che sono il costo di dirigenti, soprattutto anche il numero di dirigenti, che sono tanti nel nostro paese, che spesso hanno coordinano gruppi abbastanza ristretti, dipendenti, 5, 7, 8, no? Quindi dirigenti che dirigono mini gruppi di dipendenti pubblici. Beh, il costo sì, il costo è più elevato, sappiamo che su questo c'è un processo in corso, che è quello della riduzione dei costi degli stipendi. L'ultima, nell'ambito della legge Madia, è stato stabilito a dicembre appunto una definizione in classi distributive, il massimo sarà 240, quindi è un processo in corso attraverso decreti attuativi che porterà appunto a livellare i costi dei nostri dirigenti con quelli degli altri, paesi. Mi scusi, ma quello per capirci, cioè lei dice che questi 347.000 euro sono il residuo del passato, ma i 200... certo. Ma i 240.000 euro non avevano un effetto retroattivo? Sì, però ci sono dei percorsi attuativi, no? Quindi si andrà verso un livellamento. Solo per capire, ma perché in un'azienda privata, se si decide un tetto, il percorso attuativo si fa con il rinnovo contrattuale. Quanto ci vorrà per avere un tetto? Perché ripeto, la media dei paesi OCSE è 203.000 euro, quindi anche i nostri 240.000 euro come tetto massimo. Non è che tutti prenderanno 240.000 euro, però non è così basso da questo punto di vista, dalla media OCSE, se si confrontano appunto con gli altri, paesi. Quant'è che ci vorrà secondo lei per avere l'attuazione di questo tetto? Non glielo so dire, fa parte della contrattazione importante ovviamente, però voglio dire davvero... Io cercherei anche i punti positivi che escono fuori dal rapporto. È vero che questa è una cosa che emerge all'occhio, però io ho trovato nel rapporto anche degli spunti decisamente interessanti, quindi che l'Italia sta andando. Poi li affrontiamo. Poi li affrontiamo. Tant'è che, per esempio, visto che parlavamo di compensi, vale la pena ricordare che invece i compensi per il ruolo di segreteria sono abbastanza vicini: $55.000 contro i $53.000. Gli stipendi per impiegati invece sono sotto, impiegati con competenze specifiche sono sotto la media OCSE, che è di $89.000, da noi sono $68.000, quindi diciamo l'eccezione è solo sui dirigenti, lo dico non per far polemica ma perché i dati sono incontrovertibili su questo. E il costo medio complessivo è perfettamente sì, però diciamo che si potrebbe dare un po' di più al dipendente bravo specializzato che lavora e un po' di meno al dirigente, visto che è troppo alta quella media. Sono d'accordo con lei. Cioè, dopo il metro e la pubblicità, cerchiamo anche di capire come si misura. Molti mi dicono: sì, ma non è un problema di età, non è un problema di. È un problema di produttività. Ho capito. La produttività non viene misurata in questo rapporto. Però Con lei vorrei andare su alcuni elementi positivi, anche menti da sfatare, e poi invece il tema di produttività e merito. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti. Allora, stavamo ragionando su anche alcuni elementi positivi di questo rapporto, oltre che alcuni miti sfatati, rapporto dell'OCSE sulla pubblica amministrazione. Gianni Dominici, appunto direttore generale del Forum PA, quali sono quelli che hanno più colpito lei e quando è che avremo anche una misura della produttività che poi porta inesorabilmente anche alla valutazione del merito, per non parlare solo di medie, di stipendi? Mi stanno scrivendo molti dirigenti della scuola che dicono da noi non si va oltre i 60.000 euro, e infatti è una media. Prego, Dominici. Ma dunque, sicuramente dal rapporto escono fuori delle dimensioni positive, che sono ad esempio i conti pubblici sono migliorati, la spesa pubblica abbiamo visto è scesa, si spende meglio, si spende di meno. Ci sono alcuni aspetti in cui siamo innovativi, anche su alcuni processi, diciamo così, di frontiera, ad esempio la pubblicazione di Io Vendetta. La pubblica amministrazione italiana è tra quelle che più di altre ha pubblicato e ha rilasciato dati pubblici. Siamo all'avanguardia sul Green Public Procurement, quindi sugli acquisti verdi, no? Da parte della pubblica amministrazione. Noi su questo abbiamo fatto uno studio interessantissimo, perché è evidente che la pubblica amministrazione si fa promotrice anche di uno stile di vita, che è quello appunto di promuovere i consumi verdi, diventa non corpaccione, no, pesante che rallenta, ma al contrario può diventare fattore di traino, no, dell'economia. L'introduzione del smart working. Siamo tra i paesi che appunto hanno regolamentato con il cosiddetto lavoro agile, e così via. Insomma, ci sono degli elementi di interesse, i famosi chiaroscuri che riguardano sempre il nostro paese. Dall'altro punto di vista, diciamo appunto i costi di alcune anomalie interne. Ecco, appunto, alcune... No, l'ultima domanda che vorrei riguardava appunto il tema della produttività che porta al merito, perché è sempre molto difficile lavorare solo dati medi e aggregati, fermo restando che alcune cose importanti ce le dicono, sia nello sfatare alcuni luoghi comuni, sia invece nel dirci che ci sono alcune fasce privilegiate, i dirigenti in primis. Quando è, secondo lei, che si potrà arrivare anche a un indicatore di produttività? Ma guardi, lì c'è un tema che non prende il rapporto, non affronta, che invece i nostri dati, i rapporti nazionali affrontano, che è quello per esempio della formazione, ed è un problema gigantesco, perché nel momento in cui i dipendenti pubblici invecchiano, si riducono anche le competenze e l'adeguatezza del sistema, no? delle competenze interne. I dati nostri, ad esempio, abbiamo lavorato su dati Arand, che mettono in evidenza come per quelle mansioni dove è prevista la laurea, solo il 51% di coloro che ricoprono quelle mansioni hanno la laurea, il resto non ce l'ha. Quindi c'è una inadeguatezza spesso delle competenze necessarie per portare avanti il proprio lavoro, e questo è un tema gigantesco. Però qui ci sono anche delle possibili soluzioni rispetto a anche immediate. Per esempio, la nuova programmazione europea dedica tantissimi soldi al miglioramento, alla crescita delle competenze interne della pubblica amministrazione. Solo all'Italia sono destinati 800 milioni di euro attraverso il PON Governance. Allora, nel momento in cui vogliamo valutare i nostri dipendenti pubblici, di giusto la valutazione, dobbiamo anche metterli in condizione di lavorare nel migliore dei modi. E per far questo dobbiamo cercare di non sprecare questa opportunità che l'Europa ci dà di formarli, di far crescere le competenze interne. È davvero l'elemento chiave in questo momento. Parliamo di programmazione 14-20, già siamo nel 2017, quindi non sprechiamo questa opportunità. Un'ultima cosa, è il tema del licenziamento? Questo è No, nel senso che sa, poi gira e rigira, se vogliamo introdurre il tema del merito, della produttività, bisogna vabbè, pagare di più. Qualcosa, pure questo si sta muovendo. No, no, insomma, vabbè, muovendo, sì, vabbè, sì, dai. Io la ringrazio, sì, apprezzo la battuta, diciamo, rallegra. Allora di politiche di stabilizzazione. Cioè, ma facciamo, no, di stabilizzazione, io vorrei che si arrivasse, ma mi rendo conto che è una bestemmia quando parlo col pubblico impiego, ad aumentare lo stipendio medio degli impiegati pubblici, dando anche 80-90 mila euro contro i 67 mila euro di media a chi se lo merita, ridurre, portare a media quello dei dirigenti e vedere anche la possibilità a partire dai dirigenti del licenziamento e della mobilità come avviene in altre aziende. Poi se mi dite sempre che uno entra per concorso, lì finisce tutto il ragionamento. Ho molte difficoltà a immaginare una produttività legata al merito senza la possibilità di qualche sanzione, qualche disincentivo, che si chiama nel mondo normale anche che se non funzioni, non lavori, te ne vai a casa. Grazie comunque per l'analisi al direttore generale del Forum della Pubblica Amministrazione Gianni Dominici. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Adesso arriveremo anche alla borsa. Prima di tutto però vorrei commentare il dato di oggi sull'export nei primi 4 mesi diffuso dall'ICE, molto positivo, aumento delle esportazioni del 6,6% rispetto a un aumento previsto del 3,4%, ma farlo questa volta non con, come sempre, analizzando il dato aggregato, ma su un dato specifico. E mi riferisco a quello che è il primo partner commerciale dell'Italia, la Germania. Noi abbiamo un interscambio di 112 miliardi di euro all'anno, noi esportiamo 53 miliardi di beni e servizi in Germania, ne importiamo 59. Pensate che l'interscambio della sola Lombardia con la Germania vale 40 miliardi, la Lombardia da sola fa un terzo tutto l'interscambio, il che vuol dire quanto l'interscambio che ha la Germania con il Giappone, con la seconda barra terza economia del pianeta, con tutto il Giappone. Ecco perché ringrazio Maurizio Barrocu, amministratore delegato di Italia Marketing, che è una società tedesca di consulenza per le piccole e medie imprese. Buonasera Barrocu. Buonasera dottor Barisoni, buonasera agli ascoltatori. Voi avete fatto uno studio analizzando le esportazioni delle piccole e medie imprese italiane in Germania, sì. Ripeto, prima destinazione davanti alla Francia, e che cosa è emerso sul doppio fronte, quello che è l'aspetto positivo ma anche delle criticità? Sì, beh, innanzitutto noi abbiamo fatto un'analisi un po' diversa dall'analisi macroeconomica, perché non ci sono dati disponibili disaggregati per quello che riguarda le piccole e medie imprese, quindi abbiamo fatto un'analisi attraverso interviste ad un campione di 250 aziende italiane circa, ed è emerso sostanzialmente che un po' come report ICE di cui parlava in apertura, le piccole e medie imprese esportano in modo sistematico in Germania, con oltre il 60% di aziende anche piccole che esportano su questo mercato. Negli ultimi 6 mesi i dati sono stati molto positivi anche da parte delle piccole e medie imprese, non abbiamo qui dati numerici come l'ICE, però abbiamo un dato di soddisfazione molto alto da parte delle aziende italiane. Insomma. Allora, quante sono le piccole e medie imprese, perché voi vi siete concentrati sulle piccole e medie imprese? Sì, esatto. Che esportano e soprattutto che giudizio hanno dato sul modo in cui stanno andando le esportazioni in Germania? Noi esportiamo sia prodotti finiti, sì, che servizi finiti, ma anche e soprattutto siamo fornitori di prodotti anche di precisione, penso alla meccanica di precisione, esatto, ma non solo, esatto, dei grandi gruppi tedeschi, esatto, prodotti che vogliono di precisione. Essere fornitori non vuol dire avere un prodotto di poca qualità, anzi, componentistica, sì, che deve essere di altissima qualità. Qual è il giudizio complessivo, chi è contento, chi non è contento, e qual è la cosa che apprezzano di più le piccole e medie imprese italiane quando esportano in Germania? Ma in generale negli ultimi 6 mesi i risultati sono stati molto positivi in termini di vendite. Abbiamo circa un 80-90% di aziende che si ritengono, quantomeno non sono nella linea delle loro aspettative. Abbiamo un 45% di aziende che invece sono molto soddisfatte delle loro vendite. Quello che apprezzano di più da parte delle aziende tedesche è chiaramente la puntualità dei pagamenti, quindi abbiamo praticamente quasi la totalità delle aziende intervistate hanno delle modalità di pagamento più convenienti o quantomeno tanto convenienti come quelle italiane, ma il 60% hanno effettivamente dei grandi vantaggi a livello di liquidità, quindi riescono a disporre dei pagamenti in tempi migliori rispetto al mercato italiano. E quindi insomma, che ci fossero il 50% di imprese che denotano e segnalano una puntualità maggiore di pagamenti delle aziende tedesche, un po' me l'aspettavo. Le difficoltà che avete incontrato invece? Sì, ma le difficoltà, le difficoltà dipendono moltissimo dalle aziende, dalle singole aziende, quindi vanno innanzitutto per le aziende più piccole chiaramente mancano risorse in azienda e mancano competenze in azienda per quello che riguarda la presenza sul mercato. Per aziende più grandi comunque in ogni caso la presenza sul territorio è sempre uno dei problemi più importanti, quindi hanno sempre la difficoltà di trovare persone, assumere persone in azienda che possano gestire efficacemente il mercato. Quindi anche lì i temi classici che notiamo nella dimensione della piccola impresa, cioè capacità di avere una rete commerciale e poi le persone, i managers a sufficienza. Hanno lamentato anche un'assenza delle istituzioni, del ruolo delle istituzioni italiane nell'aiutarle in Germania, o è un mercato talmente vicino, tra virgolette, per l'Italia che non c'è neanche bisogno di una grande assistenza? Esatto, che in realtà questo non è stato denotato, è un mercato che viene praticamente comparato a un mercato domestico per la maturità del mercato, anche gli investimenti che le aziende italiane hanno in programma nei mesi prossimi denotano comunque una sostanziale stabilità, segno che comunque le aziende vedono il mercato tedesco come un mercato praticamente domestico. Come domestico. Esatto, ci sono delle difficoltà di correzione soltanto di modalità operative, ma niente di più. Allora, nell'attesa che ci porti invece un altro studio, dottor Barrocu, e quindi come vedono le imprese tedesche le imprese italiane quando devono dialogare con loro, magari anche medio grandi, visto che lì la dimensione impresa è molto più grande, noi siamo invece la patria delle piccole e medie imprese. Io la ringrazio, grazie quindi all'amministratore delegato di Digital Marketing, che è una società tedesca di consulenza, non italiana, lo dico a chi mi scrive. Dopo il GR24 andremo invece sulla borsa che ha chiuso con un più 0,42% per quello che riguarda Milano, più 0,20 Parigi, più 0,12 Francoforte, Londra invariata e invece Dow Jones a più 0,15%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano, tutte le domeniche alle 19:10 su Radio 24. La Prima Guerra Mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta i ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14:30 e la domenica alle 9:30 su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano, tutte le domeniche alle 19.10 su Radio 24. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Passiamo adesso alla borsa, più 0,42% dicevamo Milano. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Giornata anche oggi abbastanza tranquilla, va detto. Fiat Chrysler più 0,42%, allora gli indici più 0,42% Milano, più 0,25% Parigi, più 0,12% Francoforte. Invariata Londra, Dow Jones anch'esso più 0,12%. Diciamo bene Fiat Chrysler più 3,90%, Telecom più 2,70%, Enel più 2%, Mediaset più 1,80%, Generali più 1,5%, Ferragamo più 1,30% come Xor. Fronte opposto Finecobank meno 2%, CNH meno 1,90%, Terna meno 1,40%, Azimut meno 1,30%, Recordati meno 1%. Fiat Chrysler innanzitutto. Sì, Fiat si è risvegliata soprattutto nel pomeriggio dopo l'altalena registrata nei giorni scorsi, mentre continuano a circolare mille ipotesi sul tema del Dieselgate negli Stati Uniti. Comunque proprio a proposito di Stati Uniti, che anche il mercato è abbastanza nervoso perché domani oltreoceano inizierà la stagione delle trimestrali, i primi a dare conti del secondo trimestre saranno le banche d'affari JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo, e quindi c'è grande attesa da parte degli investitori sia a Wall Street ma anche nel resto del mondo. Allora, per quello che riguarda invece le borse in generale, appunto tu citavi l'attesa delle trimestrali a Wall Street, invece su generali c'è qualche voce di mercato, più 1,50%. Esatto, in verità questa mattina i titoli di generali correvano molto più velocemente, si distinguevano rispetto al mercato e rispetto ad altri titoli, poi hanno un po' rallentato l'andatura e riaccendere i riflettori su generali è l'ipotesi che l'assicurazione abbia allo studio la cessione delle attività in Germania, operazione che sarebbe peraltro gradita agli analisti e agli operatori del settore. Ancora per quello che riguarda altri titoli oltre alle generali, molto bene abbiamo visto muoversi, poi un po' ritracciato ST Microelectronics, Case New Holland meno 1,90%, Fineco meno 2%, Azimut appunto meno 1,30%. Le banche oggi sono risultate un po' più contrastate, no? Tra invariate, alcune negative, penso Unicredit meno 0,30%, UBI meno 0,50%, Banca Generali meno 0,80%, bene invece Unipol più 0,30%, parliamo di banche, ma intendiamo settore finanziario, Biper Banca più 0,30%, Mediolanum più 0,70%. Sì, del resto si entra nel periodo estivo, quindi il mercato ovviamente è sempre più volatile e si portano a casa i guadagni delle ultime sedute. Le banche tendenzialmente hanno registrato un buon risultato, soprattutto dopo che si è risolta la crisi delle banche venete, anche dopo che è stato annunciato il salvataggio di Banca MPS. Molte di queste hanno registrato anche rialzi consistenti, ad esempio Biper, che comunque ha chiuso in progresso dello 0,28%, è passata da 4,3 euro a 4,95 euro, quindi in poche sedute, quindi tutto sommato una buona performance che si è vista anche su altri titoli, dunque qualche investitore ha deciso di portare a casa i guadagni. Ancora migliori e peggiori in assoluto in questa giornata borsistica: Poligrafici Printing più 19,60, WM Capital più 16, Dada più 10, Juventus più 6,14%, Fronte Opposto Telesia meno 6,50, Visibilia meno 4,90 e Geox meno 3,5%. Grazie all'onore Micheli. Noi andiamo dopo il traffico subito sull'ultimo tema, mi riferisco ai dati sulla povertà in Italia nel 2016, oltre che è stabile sul 2015, ma è sempre molto alta, 1.620.000 famiglie, sono 4.740.000 individui. Il problema è il raffronto con gli anni precedenti e l'andamento soprattutto non solo dei minori, ma anche dei giovani, dove abbiamo avuto sostanzialmente un raddoppio della povertà dei minori e un triplicarsi di quello che è la povertà dei più giovani intesi come 18 e 34 anni. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, diciamo, invariata l'incidenza della povertà assoluta per le famiglie al 6,3% negli ultimi 4 anni. Per gli individui l'incidenza di povertà assoluta è il 7-9%, anche qua siamo invariati rispetto all'anno prima. Quello che invece emerge, si rafforza e va avanti così dal 2012 è quella che l'Istat chiama la relazione inversa tra povertà assoluta e età delle persone. Inversa perché? Perché paradossalmente più sei anziano, meno è aumentata la percentuale di povertà assoluta. Se sei ultra 64enne il valore è al 3,9%, se invece sei tra i 18 e i 34 anni è schizzato al 10% contro il 3% del 2001, così come la condizione dei minori nel 2005 era al sostanzialmente a un terzo rispetto a quella che è adesso. Chiedo spiegazioni di questa relazione inversa da un lato al ex presidente dell'Istat ed ex ministro del lavoro, attualmente docente di statistica economica all'Università di Tor Vergata, professor Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. E grazie anche all'avvocatessa Andrea Catizzone, che è esperta di diritto alla famiglia e tutela dei minori e responsabile dell'osservatorio sulle famiglie di Federconsumatori. Giovannini, prima per lei, buonasera anche a lei dottoressa. La relazione inversa è quella che spicca di più, cioè si è stabilizzata su un livello alto, per carità, il doppio rispetto al 2005, la povertà assoluta, ma continua questo rapporto inverso: meno anni hai, più è aumentato l'indice di povertà assoluta. Sì, questi dati aggregati o per età ci dicono due cose. La prima è che nonostante la ripresa economica la povertà non cala. Questo vuol dire che l'aumento del reddito è andato a beneficiare quelli che stanno in fondo alla scala. Secondo aspetto, come lei giustamente richiamava, che più avanti negli anni, con un sistema fiscale e un sistema anche pensionistico come quello che abbiamo, è relativamente protetto e quindi il tasso di povertà assoluta è più basso. I problemi veri ci sono per i giovani e i minori, tra l'altro aumenta anche il numero di minori, siamo ben oltre il milione di persone e quindi la difficoltà è nelle classi più giovani, che sono quelle che invece dovrebbero trainare il futuro, trainare l'economia. E questo è un problema estremamente serio sia per oggi che per il domani. Su questo, avvocato Catizzone, come appunto anche osservatorio delle famiglie di Federconsumatori, notiamo anche un'altra cosa, e cioè che c'è un'incidenza ancora più forte tra le famiglie con tre o più figli minori. Qui si è passati addirittura dal 18% al 26,8%. Quando sono tre o più figli e minori, il che sta a dire che non solo, come diceva Giovannini, la crescita economica non sta portando a un miglioramento anche marginale dei dati, ma anche le politiche, ammesso che ve ne siano di così significative, per la famiglia non stanno avendo i risultati. Certamente mancano sicuramente delle politiche a favore del lavoro, perché i genitori di questi figli, queste famiglie numerose, ovviamente hanno difficoltà a trovare un impiego che possa soddisfare tutte le esigenze della famiglia, ma è un dato che mette anche in rilievo l'assenza di un welfare nel nostro paese che possa sopperire alle necessità dei figli. Quindi l'impoverimento delle famiglie deriva anche, soprattutto delle famiglie numerose, deriva anche dal fatto che molto spesso uno dei due genitori, quando si hanno più di due figli, è costretto ad abbandonare il lavoro, quindi perché non c'è uno Stato, non c'è un sistema di servizi che si occupi della tutela e della via servizi a queste famiglie, quindi questo comporta un impoverimento fortissimo del reddito delle famiglie e quindi anche dei soggetti. Quindi sono due fattori negativi che si sommano: uno è l'assenza nel nostro paese di politiche di lavoro, e infatti le persone che stanno meglio nel nostro paese sono i pensionati, quindi quelli che ricevono comunque una retribuzione per un lavoro svolto in tempi migliori. Il secondo dato è l'assenza di politiche sul lavoro, quindi che creino posti di lavoro, possibilità lavorative, e il terzo elemento che incide fortissimamente nella gestione, nell'economia della famiglia, è sicuramente l'assenza di servizi di welfare che aiutino le famiglie, soprattutto le famiglie numerose. Ecco, su questo, per concludere, abbiamo chiaramente il rapporto è molto lungo, ma da questo punto di vista la summa, il succo, è quello che stiamo evidenziando. Ovvio che purtroppo la crescita sugli individui a povertà assoluta sia più alta al sud, 9,8% contro un 5%. Però aumenta anche al nord, questo rapporto dimostra che invece la povertà aumenta nel centro e anche nel nord. Infatti vi stavo arrivando, che anche il centro ha fatto da un 5,6 a un 7,3%, esatto, nel 2016. Giovannini, al di là delle politiche per la famiglia, che appunto di cui molto si parla ma poco si vede, qui c'è un problema anche di redistribuzione, oppure quel poco di crescita, ancora insufficiente, ma che c'è e si vede, va a toccare chi già lavora, cioè non va a modificare il dato sulle famiglie in povertà perché escluse, nel senso che va poi sulle imprese che riescono a esportare, che stanno al passo, le raccontiamo da molti mesi e da molti anni, quindi aumenta un pochino il benessere di chi già ha un lavoro, ma non modifica radicalmente il dato statistico su chi è nelle fasce più marginali. Sì, è esattamente così, anche perché sappiamo che molti lavori sono comunque insufficienti per tirar fuori una famiglia intera dalla povertà. Spesso lavora solo una persona con retribuzioni inferiori appunto a quelle necessarie. E l'assenza, ne abbiamo parlato tante volte, Barisoni, di uno strumento di lotta alla povertà che solo finalmente adesso il governo, riusando appunto fondi anche accantonati nel passato, si è deciso a attivare, spiega questi dati. Negli altri paesi la povertà è più bassa anche perché ci sono gli strumenti adatti. Ma io vorrei, se posso ancora un secondo, sì, segnalare altri due dati molto importanti. Primo, la povertà aumenta significativamente nei piccoli comuni, o nei piccoli medi, nei comuni con meno di 50.000 abitanti. E questo dato va letto con un'altra tabella presentata dall'Istat, per cui i soli italiani hanno una quota di povertà del 4,4%, le famiglie miste del 27% e le famiglie famiglie di soli stranieri del 25%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche dal punto di vista, chiamiamolo geografico, etnico, la povertà colpisce in modo molto differenziato grandi e piccoli centri, si concentra su famiglie anche miste, che addirittura hanno dei tassi di povertà più alti delle famiglie di soli stranieri, e quindi è un elemento che tocca in profondità il modo con cui funziona la nostra società. Qui non ha nulla a che fare con gli immigrati irregolari e così via, parliamo qui di persone regolari, e questo è un elemento da tenere presente anche per le politiche, perché spesso non si tratta semplicemente di fare una politica in cui si danno dei soldi, ma si tratta di fare una politica per accompagnare al lavoro, magari per aiutare a far partire una nuova impresa, che è molto più complesso che semplicemente dare N euro in tasca a qualcuno. Avvocato Catizzone, in una battuta, ma il reddito di inclusione, poi c'è anche il reddito di cittadinanza che ha dei costi però più alti, ma insomma è quella la soluzione, fermo restando che è importante quanto diceva Giovannini, attenzione, se sono italiani nati in Italia il tasso è molto più basso rispetto anche alle famiglie miste, oltre che agli extracomunitari regolarmente presenti in questo paese. E attraverso... Mi dica. No, io penso che sì, può essere una delle misure, ma uno Stato, un paese, un governo che non metta al centro della propria agenda politica la necessità di creare dei posti di lavoro, la necessità di creare un sistema sociale che possa in qualche maniera sostenere le famiglie. Qui in Italia abbiamo una situazione in cui non si fanno più figli, le famiglie che fanno figli e cadono in povertà, io non so che prospettiva tra 10 anni avremo nel nostro paese e quale compagine sociale ci sarà nel nostro paese. Quindi bisogna rimettere al centro il tema del lavoro, perché la povertà è semplicemente l'effetto, banalmente, quindi, anche l'effetto di un'essenza, di un'assenza di un'attività lavorativa e di un'assenza di servizi. Perché comunque le donne, specialmente le donne, sono costrette a lasciare il lavoro in occasione della nascita dei propri figli. E questo quindi l'abbiamo raccontato molte volte, quindi lei dice sì, va bene politiche attive, reddito di inclusione, ma deve ripartire il lavoro, l'occupazione. Non a caso i dati peggiori sull'occupazione sono proprio nelle categorie che abbiamo appena ricordato. Grazie a ambedue, quindi grazie a Enrico Giovannini, grazie Andrea Catizzone, e veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.